wanna be an angel, you wanna be a star. You wanna play some magic on my guitar. You wanna be a poet, you wanna be my string. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Wanna be the player? You wanna be the string? Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Still you turn me on. The pillow where I lay my head. Do you wanna be the feathers lying in my bed? Do you wanna be color cover magazine? Create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Do you wanna be the singer? Wanna be the song? Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on. You turn me on. You turn me on. Abbiamo chiuso questa Trisdassi con Emerson, Lake & Palmer, la loro delicatissima versione di questo brano che abbiamo ascoltato pochi istanti fa. Cediamo il passo a questo immenso stadio. Applausi per lui, Peter Frampton, dal doppio album live Frampton Comes Alive. Questa è Show Me The Way. Yeah. Away. Questo fu uno dei singoli estratti da questo doppio album, e proprio perché era doppio e poi dal vivo, in quella decade o oltre quella decade, stiamo parlando appunto della fine anni 70, anni 80, fu uno degli album più venduti in assoluto proprio per i doppi album live. All'epoca un doppio album costava veramente doppio, e adesso magari ci sono delle facilitazioni. Sta arrivando l'estate e i grossi calibri italiani partiranno per dei tour, addirittura anche all'estero, sia il Ligabue sia il Vasco a volte, non per questa annata 2008, quindi gli stadi sono già sold out e pieni. In più ci sono anche, come avete sentito, il 31 in Negramaro, e quindi sarà anche una delle ultime occasioni che li ascolteremo. Portami dove mi devi portare, Africa, Asia o nel primo locale, fammi vedere che cosa vuol dire partire davvero. Portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore, fammi sentire che cosa vuol dire viaggiare leggeri. Sei sempre così, il centro del mondo, il viaggio potente nel cuore del tempo, andata e ritorno. Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare, chiedimi il cambio solo se devi, sei brava a guidare. E dopo portami oltre, che lo sai fare, dove sparisce qualsiasi confine, fammi vedere che cosa vuol dire viaggiare col cuore. Sei sempre così, il centro del mondo, centro del mondo, ti prendi il mio tempo, ti prendi il mio spazio, ti prendi il mio meglio. Portami dove mi devi portare, altri locali, fammi vedere che cosa succede a viaggiare davvero.